Abril, abril, miese fronne rose, vaga veneno, frutte chi stu mese, caccia da capo, femmina cianciosa, e donca voce vui, vacita stese, frutta nuviera. Paravis, collera ancora pa noi non ce ne tras, e ce ras, e ce ras. L'anno passato, o tempo de ce ras, faceva amore con una portice, a bascio granati. E a chiamavano rosa bruccolosa, belli tempi, lacrime e vasi, ogni lato quanta nascerà, ogni cinque minuti non vas, e c'era, e c'era. Ma che già fa se so cagnate cose e male scienziate che l'ambese è arrivato un legno genovese, io capitana ritta casa sposa, capitana legno genovese, atto da porta bella porticese, e c'era caccia da capo femmina cianciosa, gli donca voce poi baci da stessa, e c'era se c'era aprile o me è uno si scorda, ma le une cose, capitano, Tolegna genovese, a me non mano, non porta che da spuso, ma dai una voce a una tua paremis, e c'era. Da spus, ma dai una voce a nato paremis, e c'eras, e c'eras.